torniamo in voce dopo questo pezzo dei Cypress Hill per parlare di un report internazionale. Il nome di questo report è Global Prison Trends 2020, del 2021, uscito da pochi giorni. È appunto un report internazionale in cui sostanzialmente vengono analizzati dei dati ufficiali riguardo le prigioni di tutto il mondo, con l'obiettivo più che altro di mostrare i trend di quell'anno rispetto agli anni precedenti. Quindi viene analizzato per pezzi, vengono analizzati i dati riferiti a diversi, diciamo, ambiti del carcere. Il primo ambito è sicuramente la popolazione totale carceraria ed è abbastanza sconvolgente vedere come anche nel 2020, pieno anno pandemico, la popolazione totale ha continuato a crescere nel mondo. Ormai più di 11 milioni di persone sono incarcerate in tutto il mondo e con una crescita superiore all'8% dal 2010 al 2020. Le donne anche sono sempre più imprigionate. Dal 2010 c'è una crescita di più 17%, sono oltre 740.000 nel mondo. Ed è molto preoccupante anche il fatto che le persone in quella che viene definita la pre-trial detention, cioè diciamo la carcerazione preventiva, che poi assume varie forme legali a seconda del paese in cui siamo, è davvero utilizzatissima. Nel mondo più di 3 milioni di persone sono incarcerate in questo modo, in carcerazione preventiva, con un aumento dal 2000 ad oggi di più del 30%. Tra l'altro c'è da notare che in 14 paesi più del 70% delle persone che sono in carcere sono appunto persone che aspettano un processo, che sono quindi considerati presunti innocenti perché non sono state ancora condannate. E tra questi paesi è presente anche l'Italia, quindi parliamo di un numero altissimo di persone che ancora devono essere condannate e sono però sostanzialmente in galera. Questi dati portano ovviamente ad una questione di sovraffollamento cronico in tantissimi paesi. In più di 118 paesi del mondo il sovraffollamento supera il 100%, ma addirittura in 11 paesi il sovraffollamento supera il 250%. Il report passa poi ad analizzare più nel dettaglio la situazione relativa alla pandemia. Più di 3.900 persone sono morte nelle galere per cause dovute al Covid-19 in circa 47 paesi. Più di 532.000 sono i casi positivi, analizzando 122 paesi. Ma il report stesso dice che in realtà i numeri reali sono molto più alti rispetto a questo, rispetto a questi riportati. Capiamo facilmente perché, un po' perché i dati che arrivano non sono oggettivi, non sono alterati, ma anche perché è ovvio che il Covid-19 colpisca molto di più le persone in carcere rispetto a quelle che hanno una vita libera. È ovvio che si sia più sensibili, diciamo, alla questione virale, per tanti motivi che vanno dalle condizioni di vita generali alla carenza, alle carenze di natura igienica che ci sono sia degli ambienti che di natura personale, ma anche a una situazione generale di stato di salute delle persone imprigionate che è molto minato rispetto a quella delle persone che sono libere. In ogni caso, tutto questo ha portato a un forte impatto, dice il report, su quella che è la salute mentale delle persone incarcerate. Gli atti di autolesionismo, i suicidi, i tentati suicidi sono tutti cresciuti. Ecco, anche questo per noi è facilmente immaginabile. Ormai si comincia a parlare di questo impatto del Covid sulla salute mentale anche per noi persone, tra virgolette, libere, cioè non incarcerate. Tant'è vero che si è stimato già in un aumento del 30% degli accessi alle cure per ragazzi e ragazze che sono nella fascia di 12-18 anni, quindi sostanzialmente preadolescenti e adolescenti che si rivolgono molto di più alle cure sanitarie per problemi di ansia, di attacchi di panico e molto altro. si ha un aumento del 120% di problemi alimentari, stress acuti e malattie simili, così come ormai si stima che il 32% della popolazione mondiale libera sempre abbia dei sintomi depressivi. Quindi se tutto questo accade per le persone libere, possiamo solamente immaginare come l'impatto sulla salute mentale delle persone incarcerate sia fortissimo. E a tutto questo si è unito la questione che porta il report, si è unito alla dimensione delle proteste, delle rivolte che si sono scatenate in tutto il mondo, e il report stesso denuncia il fatto che le procedure tra virgolette procedure si sono scelte rispetto alle risposte che si sono scelte rispetto alle proteste e alle rivolte hanno tutte comportato alla fine un uso eccessivo della forza che ha portato ad altri morti e anche lesioni molto gravi. Il report passa poi ad analizzare come il Covid-19 abbia proprio inciso sul numero delle persone imprigionate e riporta che da un lato c'è stata una flessione, una riduzione per la situazione di emergenza. Circa 109 paesi hanno adottato dei meccanismi di rilascio nel primo picco della pandemia, ma sostanzialmente si tratta di procedure che sono state abbandonate o sono state rese dai paesi stessi, dai governi stessi inefficaci, per cui in sostanza meno del 6% della popolazione totale delle persone incarcerate sono state rilasciate nel mondo. E tra l'altro c'è da segnalare che il 75% dei paesi non hanno incluso in queste modalità di possibilità di rilascio, non hanno incluso esplicitamente le donne. Una leggera riduzione c'è stata perché sostanzialmente i processi dal punto di vista legale, i tribunali si sono fermati, quindi i processi sono stati sospesi, così come una leggera riduzione c'è stata perché sono state maggiormente utilizzate durante il periodo della pandemia delle alternative alla prigionia. C'è da dire che però se da un lato questo report parla di questi meccanismi di flessione del numero delle persone totali imprigionate, in realtà parla anche molto più a lungo di quello che è stato il fenomeno della crescita. Fenomeno della crescita che sostanzialmente ha due grandi motivazioni. Da un lato le infrazioni alle stesse leggi del Covid-19, le stesse leggi che nascevano rispetto al controllo della pandemia. E quindi tutte le persone che hanno mostrato, il report dice, una non compliance, cioè una non, diciamo, aderenza, non collaborazione rispetto a queste regole date dal Covid-19, hanno visto quindi spesso arrivare come soluzione il carcere, come risposta il carcere. È ovvio che queste leggi ad hoc emanate da tutti gli stati, non solo dall'Italia ma anche altri, in realtà in molti paesi, nella maggior parte dei paesi, sono delle leggi sostanzialmente discriminatorie, sono basate su discriminazioni, hanno basi razziste, hanno basi classiste, perché hanno spesso finito semplicemente per criminalizzare la povertà, si sono accanite su quelle fasce di popolazione che sono già fasce marginalizzate, si sono accanite su persone povere, su minoranze etniche e su persone LGBTQ+, quindi hanno appunto basi razziste e basi classiste. Nel report a questo punto si parla della pandemia dal punto di vista medico-sanitario. La misura più comune che è stata adottata in tutti i paesi del mondo per casi di Covid-19 tra persone prigioniere o persone che mostravano dei sintomi da Covid-19 è stato l'isolamento. È stata una procedura utilizzata sostanzialmente in massa un po' in tutti i paesi del mondo e spesso ha portato ad un isolamento diciamo solitario, cioè un isolamento proprio di un individuo alla volta. L'impatto è stato fortissimo e a questo dobbiamo sommare il fatto che a queste situazioni di isolamento in generale si affiancavano delle misure restrittive per quanto riguarda i contatti con le persone care, delle misure che portavano ad una carenza di cibo, ad una carenza di medicine, ad una carenza di cure mediche. Paradosso, proprio nel momento in cui c'è una pandemia non riesco più, ho ancora meno assistenza sanitaria di quanto ne avevo precedentemente, a una diminuzione delle possibilità di riabilitazione per le persone imprigionate e a una diminuzione anche dell'assistenza di tipo legale. Il passaggio dopo di questo report è infatti tutto centrato sui diritti umani. È ovvio che in questo tipo di situazione molti diritti umani sono stati violati. Sono stati violati nei modi più diversi, per i regimi di isolamento di cui parlavamo prima, per le quarantene che sono state portate avanti anche per mesi, ma anche perché il livello di violenza è cresciuto e le persone nelle prigioni sono state sostanzialmente tagliate fuori dal mondo. In tutto questo, un passaggio del report è incentrato anche sulla questione del terrorismo, una definizione di terrorismo che è assolutamente vaga, indefinita per moltissimi paesi all'interno del mondo, non ha una formula, diciamo, reale. Ha fatto sì che tantissime persone fossero accusate di terrorismo, con tutto ciò che deriva appunto rispetto alla violazione dei diritti umani. A questo punto il report si sofferma sulla osservazione che gli stessi dati che sono riportati nel report e che mostrano quindi trend rispetto agli anni precedenti o al decennio precedente è in qualche modo in parte non realistico, perché avere dati già normalmente riguardanti le prigioni da molti paesi, avere dati realistici è difficile se non impossibile, ma durante il periodo della pandemia questo è diventato ancora più difficile e addirittura per molti paesi non c'è stata proprio possibilità di avere nessun tipo di dato. Tutto è stato negato, tutto è stato taciuto. Le persone più colpite sono stati comunque in ogni caso bambini e bambine e donne incarcerate. I numeri di ragazzini minorenni e ragazzine minorenni rinchiuse all'interno delle prigioni nel mondo è cresciuto, il numero delle donne rinchiuse è cresciuto ed entrambi sono spesso stati esclusi dalle misure alternative. Per chi restava in carcere c'è stato un altro elemento molto importante che ha giocato un ruolo molto importante nei paesi del mondo, che è stato la nuova tecnologia. Una volta che i contatti con le persone care, i colloqui diretti, la possibilità di avere pacchi dall'esterno è diventata pari a zero, l'unico contatto possibile con le persone care è diventato un videocolloquio, quindi la possibilità di avere un colloquio attraverso telefoni cellulari, tablet, PC. Tutto questo da un lato ha dato possibilità, non è completamente da demonizzare, perché ha dato delle possibilità non solo per la questione dei contatti con le persone care, ma a volte anche per riuscire ad avere comunque accesso a delle possibilità. In alcuni paesi lo studio all'interno del carcere e le scuole all'interno del carcere sono potute proseguire attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, ma addirittura nel report si riporta anche casi di paesi in cui l'accesso alle cure mediche, che era diventato difficile di persona, ha potuto trovare delle forme alternative, diciamo sostitutive, attraverso la nuova tecnologia, proprio attraverso visite mediche non in presenza diretta. Ovviamente tutto questo però è da problematizzare rispetto al fatto che esiste, no, il famoso digital divide, no, che separa quindi in questo modo sempre di più paesi più ricchi da paesi più poveri. Nel report un passaggio molto bello è quello che riguarda la questione razziale. Il razzismo viene da subito evidenziato come un problema che è alla base di tutto il sistema carcerario in tutto il mondo. Come in quest'anno, dice il report, il Black Lives Matter Movement ha anche evidenziato. E nel report quindi si riportano come esempi quindi le proteste, la violenza delle polizie rispetto alle minoranze etniche, che continua ad essere tra l'altro la fascia di persone più presenti all'interno delle carceri. Penultimo punto del report è, secondo me, un punto molto importante, riguarda le droghe. Circa 2,5 milioni di persone sono imprigionate nel mondo per reati connessi alla droga, e di queste il 22% è in realtà imprigionata per consumo, non per spaccio, cioè per uso, per quello che viene definito l'uso personale. Il report stesso quindi evidenzia come un sistema proibizionista come quello di praticamente sostanzialmente quasi tutto il mondo porta ad avere un numero eccessivo di persone imprigionate, con ovviamente delle ricadute immediate sulla perdita di libertà per delle persone che sostanzialmente non hanno commesso alcun tipo di reato e non sarebbero pericolose all'esterno, all'interno della società libera, diciamo. E contemporaneamente una difficoltà di vita proprio all'interno delle carceri, in cui il tema del sovraffollamento alla fine è il tema più delicato e difficile per tutto il mondo, per tutti i paesi del mondo. L'ultimo punto analizzato è la pena di morte. Il movimento per l'abolizione della pena di morte continua a crescere, e questo è sicuramente un dato positivo, così come è un dato positivo il fatto che nel 2020 si sia avuto un numero record, ma a ribasso, quindi il numero più basso da anni, di esecuzioni nel mondo in generale. Parliamo comunque di almeno 483 persone in 18 paesi che sono state giustiziate, e quindi resta ancora un numero altissimo.